Di Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, bentornati qui su Radio Contrabanda, nuova puntata di Zibaldone, un'ora insieme con tanta musica che ci arriva dall'Italia. Vabbè, abbiamo cominciato con una bella scarica di musica, un brano strumentale, Fortuna dei Casamatta, perché, vabbè, lo faccio dire immediatamente all'uomo più ergonomico di tutta Barcellona e direi anche di tutta la Catalogna, il nostro amatissimo Banzo. Banzo, buon pomeriggio e bentornato a Zibaldone. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Per la Catalogna non posso garantire, mi hanno parlato di un paio di soggetti estremamente ergonomici rispettivamente a Vic e a Torre d'Ambara, però devo confermare. Sì, perché abbiamo cominciato con questo brano? Perché torna il Rapporto Italia, una delle nostre serie, uno dei nostri monografici, arriva la sesta edizione, ne facciamo circa due puntate all'anno, inteso sia come anno solare che come stagione di Zibaldone, quindi questa è la seconda del 2025, ma la prima di questa stagione. E quindi che cos'è il Rapporto Italia per chi è caduto da Marte e ci ascolta per la prima volta adesso, o anche da un altro pianeta indifferente? Beh, semplicemente diciamo che Zibaldone è un programma storicamente molto legato alla canzone d'autore, anche se, come il nome suggerisce, ci piace molto spaziare in tutti i sensi. E invece il Rapporto Italia è una collezione di brani usciti negli ultimi mesi di artisti italiani di un'area leggermente diversa che non saprei bene come definire, perché sono due delle parole più porose, più abusate, diciamole, della critica musicale: indie alternative, che vuol dire Dio tutto, mi perdoni. Tutto e niente, comunque insomma lo capiranno anche Banzo e i nostri ascoltatori ascoltando le canzoni, magari se hanno avuto la pazienza e il piacere di ascoltare anche i Rapporti Italia degli ultimi anni. Ascolta, andiamo subito a bomba. Casamatta, un nome in particolare per un progetto del tutto particolare. Beh sì, è un brano, l'avete sentito, è Math Rock, rock matematico, un disco d'esordio uscito a fine agosto, compattissimo, 11 brani, 24 minuti, per una nutrita cordata di etichette. E qui torna il discorso dell'indie, perché cosa c'è di più underground della cordata di etichette? Le dico, sono Non Mi Piace, Dischi Decenti, Cosmica Dischi, Controcanti Produzioni e 1-0, quindi 5 etichette per produrre questo album. Un duo di stanza a Bologna, il suono l'abbiamo già detto, sfrutta al meglio le caratteristiche di questo genere: impatto, cerebralità, obliquità, intensità. Sono un gruppo molto fresco, 2 anni di attività, hanno solo un demo con 3 brani, però c'è un affiatamento, un interplay. Purtroppo, ovviamente, stando qui non ho avuto il piacere di vederli dal vivo, ma il disco l'ho consumato e insomma sembra che stiano insieme da molto di più. A livello di immaginario, e qui torno al mio antico hobby di descrivere le copertine in radio. Smooth Master Rock è un genere un po' neutro, e questa immagine che poi è un po' oldie, se vogliamo, sono questi soldati stile prima guerra mondiale baffuti che sorreggono un altro soldato ferito su sfondo rosso, e anche il flyer di un loro concerto aveva un'estetica simile, probabilmente la mano che l'ha disegnata la stessa, con un dottore, sempre un'aria piuttosto retro, quindi diciamo che qualche coordinata estetica l'abbiamo data. E sì, questo duo, esattamente non saprei indicare la provenienza dei membri, può darsi che uno dei due membri sia a zero, perché anche bel colpo. Nella brevissima biografia viene citata Baku, e questo membro si chiama Sanan, quindi potrebbe essere a zero, anche se non ho elementi per confermarlo, ma comunque se è questo il caso vedremo che in questo rapporto Italia ci saranno altri progetti che, pur essendo 100% italiani, hanno membri di origine straniera. Ovviamente non abbiamo, siamo aperti a tutto, perché insomma, passiamo circa 10 puntate all'anno a parlare male della Lega Nord, quindi sarebbe un po' strano, ecco. andiamo avanti. Grazie Banzo per averci raccontato un po' chi sono i Casamatta. Andiamo con un altro progetto che insomma forse già conoscete, insomma si prendono ispirazione da una famosa modella, Kate Moss, ma loro si chiamano Hate Moss. Sentitevi questo brano. Sono sonorità diverse in questo caso tra l'electro e il post-punk per gli Hate Moss con I Know, scritto all'italiana AI, dal loro più recente EP Merci Mac Days, uscito per Trova Robato. Do subito anche il bentornato e auguro buon pomeriggio al nostro Fausto De Salvia. Fausto, come va? E raccontaci un po' qualcosa di questi Hate Moss, di questa canzone, di questo EP. Ciao Steven, buon pomeriggio a tutti. Io vado bene, la voce non tanto, lo sentirete durante la puntata, però farò del mio meglio per sopravvivere, esatto, ai rischi dell'influenza. Allora, parlando degli Hate Moss, questo album ha una storia particolare perché è stato registrato a Istanbul, e uno dice vabbè, però in un particolare giorno. L'hanno registrato lo scorso 19 marzo e praticamente dovevano registrarlo live nel Karga, che è un locale nella zona asiatica di Istanbul, e quindi da qui trarre appunto questo EP con alcuni brani inediti. Peccato che alla mattina venga arrestato Imamoglu, il sindaco di Istanbul, e quindi questo provoca il blocco dei trasporti, la censura immediata dei social e naturalmente le proteste che hanno poi portato a, mi pare, 2000 arresti, quindi davvero una reazione fortissima dell'opposizione a Erdogan, e quindi ovviamente praticamente un live senza pubblico, ma proprio per questo più importante, anche perché la canzone I Know riecheggia Pasolini, riecheggia il Pasolini del famoso articolo del Corriere della Sera del novembre del 74, più o meno un anno prima della sua morte, quello in cui si dice io so chi sono i responsabili, no? Del presunto golpe, quindi io so, e infatti il brano, anche se tutto in inglese, si chiude con la frase il sentiero è stato percorso, la lama è stata sguainata, la luce di Pasolini era lì e poi è scomparsa. E fra l'altro ricordiamo che proprio oggi gli Hate Moss hanno pubblicato un brano dedicato alla tematica delle morti sul lavoro, quindi questo riconferma che il duo italo-brasiliano ha un fortissimo impegno sociopolitico. Bene. Molto interessante questo progetto, quello che ci ha raccontato Fausto. Noi continuiamo e andiamo in Sicilia, dove troviamo Lillo Monreale con questa Nivuru Munnu. Thank you. banzo, direi che siamo veramente, siamo rimasti un po' nel campo dell'elettronica, però un'elettronica ambient, no? Che in realtà è anche un po' la cifra di Lillo Monreale. Tra l'altro a me, guarda, lo voglio dire, mi piace tantissimo il titolo di questo suo album, All of My Life I've Been Dreaming About the Sea. Ah, bello, guarda, tra l'altro sottoscrivo. Sì, e a livello di titoli è molto bello anche il titolo del brano che abbiamo ascoltato, hai detto Nivuru Munnu, cioè Nero Mondo, dove però mondo è aggettivo, in che senso? Come in giallo canarino, che ovviamente è un sostantivo però a valore aggettivale, quindi diciamo che si riferisce a un'ipotetica sfumatura di colore, diciamo nero come il mondo, sai, quel nero che è il mondo, ecco, è un titolo sicuramente evocativo. Adatto ai tempi. Sicuramente, io non sapevo come si dicesse nero in siciliano, o perlomeno in dialetto agrigentino, perché Monreale è agrigentino, mi piace molto anche questo termine, mi piace sempre imparare vocaboli, e sì, dicevamo ambient, ma non solo, perché... Sì, Monreale ha dei trascorsi nell'ambito dell'elettronica, della musica per film, e questo progetto che lui definisce come elettronica mediterranea, ascoltandolo è una definizione, è plausibile sicuramente, però nasce alla convergenza fra suoni diversi, perché da una parte abbiamo ambient cinematica che viene dal nord, Johan Johansson, i Sigur Rós, quel tipo di suono, quindi coordinate tutt'altro che mediterraneo, ma poi musica tradizionale come Alfio Antico o Cresa de Madi de André, per esempio, con suoni più folcloristici del bacino del Mediterraneo in senso esteso, diciamo. E comunque a livello di strumenti presenti in questo brano abbiamo la baglama, che è uno strumento a corde in legno di gesso, è molto specifica questa cosa, credo di origine turca, però usato in tutto il Medio Oriente. Sì. E concluderei, Steven, con una nota sul testo, che era evidentemente in siciliano, è breve ed estremamente ermetico, tradotto in italiano sarebbe apri gli occhi, ci stavamo addormentando, apri gli occhi, non ti spaventare che sta facendo giorno, quindi la lasciamo qui, quel mistero ancora da schiudersi, ecco. E noi andiamo avanti e troviamo un artista che si chiama Juni, o Juni, che dir si voglia, poi ve lo spiegheremo meglio. Tra l'altro c'è anche un collegamento con il brano che ci siamo appena ascoltati, perché il suo nuovo album si intitola Nero, virgola, attimo. La canzone invece si intitola Chiagne. Quanto mi piace l'odore dei botti dei carri, teatri di miele, da capo che scoppia, balla al mondo scuro, siamo l'ultima goccia, siamo l'ultima goccia, balla al mondo scuro, in un'aria che strozza, ma che chiagna fa? Allucco in un quadro di sappa, ma per sentire più forte il chiosso, fumare le spine nascosta su un ramo. Mastico legno sul palco che mi fa bailare, stranamente distrago una mimica che chiagna, chiagna, ma che chiagna fa? Fumare le spine nascosta su un ramo. Mastico legno sul palco che mi fa bailare, stranamente distrago una mimica che chiagna, chiagna. Vedo una chica che non mi assomiglia, mi lascia stupita. Vedo una chica che non mi assomiglia, mi lascia stupita. Beh, un sound molto particolare, tra l'altro cantando anche in diverse lingue, italiano, napoletano, inglese, perché lei è napoletana, ma Fausto, spieghiamo soprattutto chi è Juni o Giuni. Sì, infatti è indifferente, lei ha detto in un'intervista, quindi puoi dire sia Giuni con riferimento a giugno, il suo mese di nascita, oppure Juni con riferimento a Waiuni, quindi ragazzi ovviamente in dialetto napoletano. E lei è Ilaria Foruisano, ve la ricorderete probabilmente come cantante dei GOM, era una band emocore, credo attualmente solo sospesa, non credo che si siano sciolti, hanno realizzato 3 album più o meno negli ultimi 10 anni, ed è una band originaria di Caserta, lei principalmente è proprio originaria di Caserta, che già con loro ha, diciamo, si è confrontata con i temi della noia, della desolazione quotidiana, e che sono tematiche che più o meno ha portato avanti anche con progetti successivi. Questo, come ha dichiarato lei, è più proprio un esperimento, una detonazione, un progetto nato da una nausea per le forme, dal bisogno di esplorare. Infatti c'è un'elettronica molto spinta, e questa commistione di appunto italiano-napoletano in questo brano, in inglese in altri brani, e quindi un flusso, diciamo, un flusso di coscienza, anche un flusso sonoro, diciamo, ininterrotto. Il live è molto interessante, l'album è molto interessante, che sono solo 8 brani, anche piuttosto breve, ma è davvero interessante, un progetto da scoprire, e anche live, ho avuto modo di vederla pochi giorni fa, ve la consiglio perché è un'ora intensissima e godibilissima. Oh, benissimo. Noi adesso andiamo ad ascoltarci una canzone che ha un titolo che mi piace molto. Telephone Tango. Francamente è il nome dell'artista. Fausto, invece andiamo su delle sonorità molto 80s, però per un progetto molto interessante, un artista di cui vale la pena parlare, no? Francamente il suo nome artistico, lei si chiama Francesca Siano. Sì, Francesca Siano, torinese, è una cantautrice anche impegnata su temi sociali, soprattutto su quelli del gender gap. D'altronde fa parte insieme con Irene Buselli, che beh, ricorderete perché l'abbiamo intervistata solo due puntate fa, del collettivo Canta Fino a 10, che è impegnato su questi temi. In attesa del suo primo album, che uscirà l'anno prossimo, non c'è ancora una data precisa, questo intrigante singolo pop è uscito con la produzione di Diego Montinaro e ha delle sonorità che ci rimandano un po' alle produzioni di Alice, Milva, Giuni Russo, insomma cose che ben conosciamo e che proponiamo sempre a Di Baldone, o anche la Nada di Amore Disperato, anche con riferimento al telefono. Fra l'altro questo il telefono di Telefontango si riferisce a un vecchio apparecchio che è stato utilizzato con il tutù per ispirare il giro di basso del pezzo, quindi questa è una curiosità, mentre il tango è riferito alla danza continua degli expatriati, insomma di tutti gli italiani che si muovono fra una città e l'altra, come ha fatto lei, o fra l'Italia e il resto dell'Europa. E infatti, come hai notato, si parla di Berlino. Lei ha fatto, credo, l'ultimo anno di Erasmus a Berlino, ci ha abitato per 4 anni, e quindi abbiamo, ora che sta a Milano, una poesia urbana in equilibrio fra l'introspezione e l'apertura, la nostalgia per il Berlino che l'ha resa la donna che è oggi, e naturalmente la prospettiva della Milano in cui si è trasferita. E noi andiamo avanti, troviamo una canzone dal titolo che ci ricorda, insomma, tu nominavi Alice, Nada, eccetera eccetera, Giuni Russo, andiamo un po' più indietro, Little Tony, questo non è il nome dell'artista, è il nome della canzone di Viaggi Andromeda. Bella, mi ha messo, Banzo, sai, mi ha messo di buon umore questa canzone di Viaggi Andromeda, Little Tony. Tra l'altro anche, insomma, delle rime e un testo molto divertente. Ne sono lieto, Steven. Adesso non scelgo le canzoni appositamente per metterti di buon umore, ma è un effetto collaterale che mi compiace sicuramente. Per quanto riguarda le rime, in effetti Little Tony che fa rima con Mio Mini Pony è qualcosa di straordinariamente creativo, o forse no, perché tu ricordi quella vecchia storia della torta di compleanno, Steven? No, devo dirti di no, non so a cosa ti stai riferendo. Ecco, perché c'è un aneddoto che mi era rimasto incastonato in qualche angolino della memoria, riemerso con questa rima, di una bambina in provincia di Palermo che circa una decina di anni fa, ho recuperato l'articolo di giornale, aveva chiesto una torta di compleanno con i mini pony e in pasticceria e hanno fatto una torta di compleanno con i Little Tony. Si trova anche la foto. E ricordavo perfettamente la fine dell'articolo, che era la piccola rimasta delusa si sarà forse consolata mangiando una fetta di dolce. Io non so se Luca di Cataldo, cioè Viaggi Andromeda, conosceva questo aneddoto e ha costruito la rima a partire da questa reminiscenza, o gli è venuta perché è particolarmente creativo, perché associare questi due termini non era facile. Ma è comunque, hai detto, il testo era così, in effetti un po' la produzione di Viaggio Andromeda è caratterizzata da questo mood, da questa falsa riga, cioè una creatività e un'aria scanzonata che però al tempo stesso è malinconica, perché è molto bravo su come riesce a creare diciamo, questo spettro emotivo abbastanza sfumato. E questo è un recupero, se vogliamo, perché in realtà l'album è uscito il 4 aprile, cioè c'è già stato, sarebbe potuto stare nel rapporto Italia di giugno, ma lo includiamo adesso perché ci sembrava assolutamente degno di nota. Abbiamo detto Luca di Cataldo, che dopo anni incidendo in inglese, ispirato da Aurora Borealo e dalle sigle dei cartoni animati 70-80, quindi forse c'è un collegamento, decide di cantare in italiano. Peraltro con Aurolo aveva anche il side project Sumeri, molto antico, e il suono l'abbiamo sentito, è cantautorale, è un po' psichedelico, c'è qualche, diciamo, è un po' quella indeterminatezza leggermente psichedelica, un po' di synth pop, e la voce che, non lo so, a me ricorda un po' Ivan Graziani. A te? Beh, un pochino sì, anche se bisogna dire che non va così tanto su come Ivan, eh? Beh, effettivamente i falsetti di Ivan Graziani sono micidiali, come sa chiunque sia stato mio vicino, perché lo canto spesso sotto la doccia. E questo album esce per l'etichetta Talento, che è l'etichetta dello stesso di Cataldo, quindi... Ma devi dire il titolo dell'album, ecco, perché come lo pronunceresti? Ah, giusto, mi hai ricordato qualcosa, perché parlando di Little Pony effettivamente mi sono perso un dettaglio importante. Allora, siccome abitiamo in Spagna mi verrebbe a pronunciarlo Dulce o Dulce, però effettivamente è scritto Dulce. Non lo so. Per fortuna c'è la L, dai, per fortuna c'è la L. Intervistiamo Viaggio Andromeda solo per chiedervi questo. Comunque volevo chiudere con un'ultima curiosità. Dai, vai, che siamo in ritardo, Banzo. Il suo profilo Instagram è fermo da 20 settimane, ha pubblicato quest'ultimo post dicendo che si era rotto le balle di Instagram e aveva bisogno di disintossicarsi poco dopo il lancio dell'album. Speriamo che questa disintossicazione stia procedendo bene. Dai, andiamo avanti, noi troviamo Queen of Saba con questa Rizoma. Sola sua letta terra cava, sbatte la talpa con la capa pelata su un corpo duro, chissà su un muro, la bocca di un buco oscuro, che paura, ma sto sicuro, dimmi chi sei tu, io sono un bulbo, ma se vuoi tu mi puoi chiamare rizoma, sono della zona, ma vivo dovunque allo stesso tempo, nella terra mi oriento, il mio solo obiettivo è il collegamento, con i bulbi compagni, facciamo rete come la tela dei ragni. Sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio. cambiare compagno e farne casa. Più la tana si allarga, più il suo cuore si scalda. Terra sana, da cui nascere ancora. Come rete, non sarà più sola. Sono uno, ma non sono solo. La mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo. La mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno. Sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno. Sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, la mia casa è il mondo, la mia forza è proprio che sono uno, ma non sono solo, ma non sono solo, ma non sono solo. E questo è un singolo, appunto, Rizoma, Queen of Saba, Fausto, che un po' si collega a una delle cose di cui parlavamo la scorsa settimana nell'intervista con Enrico Gabrielli, l'esperimento delle canzonine, ossia canzoni in quel caso scritte da Gabrielli per bambini insieme ad altri cantautori. Ecco, questo progetto dei Queen of Saba ha qualcosa a che vedere con tutto ciò? Sì, come Gabrielli ha fatto un album di canzoni per bambini che si riallacciasse al vecchio immaginario, gli album di Endrigo, di Lauzi, del Quartetto Cetra, con i testi di Rodari, e anche loro, anche questo duo elettronico veneto, composto da Sara Santi e Lorenzo Battistella, ha scelto di spostarsi su queste tematiche, lanciando un progetto che si chiama Canzoni per Bimbo, quindi con il neutro per indicare una maggiore inclusività. Quindi, per un attimo, lasciando pezzi con tematiche più adulte come ACAB, che ha questo bellissimo l'acronimo ben noto, e diventa Amami come ameresti Bambi, quindi davvero un applauso per l'inventiva, e quindi abbandonando anche le sonorità elettroniche, perché qui infatti è un brano fatto con poche cose, un po' di percussioni, qualche piccolo accenno di chitarra, e quindi melodie facili per veicolare ai più piccoli, e non solo, messaggi complessi sull'identità, il consenso, l'antispecismo, l'antiabelismo. Fra l'altro, prima di questo era uscito il brano Non mi piacciono le divise, che ovviamente, come dice il titolo, parla di si schiera contro la militarizzazione dell'immaginario dei bambini. E invece Rizoma, mi scuserai per il riferimento botanico, però appunto è un termine che in botanica definisce il fusto sotterraneo che si collega con i suoi simili, svolgendo il compito di mantenere in vita la pianta. E ovviamente la metafora è abbastanza semplice, con poche parole si parla di vivere in comunità, di sostenersi vicenda e di costruire dal basso. Eh sì, infatti abbiamo sentito, no, soprattutto i versi finali: sono uno ma non sono solo, la mia casa è il mondo. Andiamo avanti e troviamo questa canzone che si intitola Cartone, di Orange Kombucha. Vediamo un po' se vi piace. Yeah. scorsa puntata, ci ritorno ancora, l'abbiamo dedicata ai Calibro 35 Banzo, tra l'altro bellissimo concerto qui a, a Barcellona un paio di giorni fa alla Nau, veramente piacevole come sempre, incredibili Calibro 35. E Banzo, gli Orange Kombucha, ecco, è un altro progetto diverso, ma anche qui si tratta di un collettivo che insomma in qualcosa forse può ricordare i Calibro. Beh, qualcosa sì, perché comunque hanno uno spettro sonoro talmente vasto che probabilmente c'è una qualche sovrapposizione, però i territori sono un po' diversi, perché comunque, diciamo, sì, c'è il mondo delle colonne sonore, sperimentazione, soul music, new jazz, però c'è questa attitudine hip hop nello stile di produzione e omaggi più o meno manifesti a compositori come Alessandroni, Umiliani, diciamo che ce li scelgono bene i riferimenti, quindi sì, può darsi che ci sia qualcosa di sovrapponibile, si può sentire, però è un collettivo più vasto perché sono 9 membri, gruppi con 9 membri mi vengono in mente gli Slipknot, però completamente un'altra cosa, diciamo. Forse il gruppo che ha avuto più successo nel mondo con 9 elementi, perché non è proprio un viatico per il successo, è un collettivo nato fra, non gli Slipknot, ma ovviamente gli Orange Kombucha, fra la Romagna e Bologna, diretto da Giovanni Minguzzi, batterista, compositore, fondatore, assieme a Mattia Dallara. Ci sono anche altri membri come Paolo Raineri degli Ottone Pesante, altro grandissimo progetto, Vincenzo Vasi, tereminista da anni, nel senso che suona il teremin, da anni al fianco di Capossela, quindi diciamo che 9 musicisti, ci mettiamo a sgranare tutte le referenze, non ce ne vogliono i membri che non abbiamo menzionato, perché comunque è anche interessante, Steven, la storia di questo disco che è molto molto molto tortuosa, L'album che si intitola Oca.p, Ocapi come l'animaletto, e il loro primo si chiamava Vol, come sempre col punto in mezzo, quindi c'è una continuità. Questo album, che è stato composto in realtà molto prima, addirittura prima della pandemia, registrato durante il lockdown, e poi nel maggio 2023 sembra quasi va perso, perché è contenuto in un hard disk in uno studio a Forlì che viene danneggiato a causa delle alluvioni che colpirono la Romagna, argomento che poi abbiamo coperto anche noi a suo tempo, speriamo che non risucceda. I dati sono stati recuperati ed ecco qua l'album che arriva con estrema fatica, però molto con bello, estremo piacere per l'ascoltatore. E ci sono, comunque abbiamo ascoltato, questo è strumentale, la maggior parte dei brani sono strumentali, ci sono incursioni cantate, in un brano ospite Francesca Amati, che ricordiamo dai Comaneci, Yemi Can Be, e poi Nick T, vicentino, che avevamo proposto in un rapporto Italia di un anno fa ed è tornato da una settimana con un nuovo album che si intitola The Use, che ascolterò nei prossimi giorni, quindi 9 membri più gli ospiti canori e non solo, quindi veramente bene, tantissima gente per un risultato eccezionale. Però benissimo, noi andiamo avanti perché siamo un po' in ritardo e vogliamo farvi sentire questa Pinocchio di Si Boom Voilà, un nome un po' particolare come avete capito. Sbagliato. E vabbè, qui avete sentito un rock, anzi un noise punk bello potente, Fausto, per un altro progetto collettivo che mette insieme artisti con diverse provenienze. Assolutamente sì, un progetto recentissimo, praticamente sono questi Sibumbola composti da Roberta Sammarelli, appena uscita poche settimane fa dai Verdena dopo 30 anni, quindi bassista, Giulia Formica, che è la batterista di Baustelle da diversi anni, Nessun Artista in Particolare, che è l'alias di un cantante polistrumentista che appunto si chiama all'anagrafe Michelangelo Mercuri, e Giulio Favero del Teatro degli Orrori e Davide La Sala, che è un chitarrista e produttore. Questo Pinocchio, che appunto, come dicevi tu, con queste bordate noise punk dà la forma a una versione inedita del personaggio collodiano, è appunto il loro primo singolo, anticipa un album che dovrebbe essere omonimo, in uscita mi pare a metà gennaio, fine gennaio, quindi magari ne riparleremo più avanti, e appunto ci propone un rock ad alto voltaggio e a forte intensità, con una buona dose di ironia e desiderio di stupire fin dalle prime presentazioni, perché il singolo è stato presentato con dei video molto curiosi in rete, quindi c'è questa attitudine anche surreale di presentarsi attraverso i social. Perfetto, Fausto, grazie di essere stato con noi e noi ci ritroviamo alla prossima puntata e sicuramente a qualche prossimo monografico speciale di Zibaldone. Sì, credo che ci sentiremo presto perché siamo a dicembre, intuisco che sarà una puntata breve. Ciao a tutti, buona serata a tutti. E noi andiamo avanti, ci ascoltiamo ancora un'altra canzone, Jamonia dei Litania. Sentiamoceli qua, poi il banjo ci dirà qualcosa. Don't let me out. Così si conclude questo brano dei Litania Jammunia. Banzo, un progetto interessante che mischia, come avete capito, sonorità e stili diversi. Beh sì, abbiamo una base doom metal e una presenza della musica indiana che non è accessoria, non è decorativa, ma proprio è consustanziale al progetto, perché è il nuovo gruppo di Elisa De Munari, alias Ellie Demon, che abbiamo intervistato nella scorsa stagione. L'avevamo conosciuta come viscerale blueswoman, però ne abbiamo parlato anche nell'intervista, la sua conoscenza della musica indiana è tutt'altro che sì. Casuale, è un argomento che ha studiato profondamente, e quindi diciamo che questo aspetto sacrale forse si fonde bene con il sottogenere metal del doom, e nasce quindi questo progetto che è arrivato all'album nello scorso ottobre, dove è accompagnata dal chitarrista Marco Degli Esposti, che l'accompagna anche nel suo tour del suo progetto solista. Poi abbiamo al basso Enrico Baraldi, già negli Ornaments, un gruppo che io adoravo, e il batterista serbo Vladimir Markovski di Black Heart Procession, cioè non gli ultimi arrivati. Sì, appunto, bene, il suono è questo. Abbiamo strumenti come il sitar di Laruba Harmonium e Tampura, che appunto, come dicevo prima, sono una parte sostanziale della siamo in chiusura, Banzo, abbiamo veramente pochi secondi per annunciare la canzone con cui ci salutiamo, Michele Andreotti, Luna Calante, anche qui un progetto particolare. Esatto, è un peccato, Michele Andreotti ha alle spalle almeno altri due album, uno split, un saggio sul compositore minimalista Phil Niblo, che questo risorge, è uscito il 18 luglio per Lontano Sirius, ed è concettualmente molto interessante, perché la fonte, il disco si chiama Risorgi, e il materiale sonoro sono brevi campionamenti, una cinquantina di compositori italiani di epoca risorgimentale, poi rielaborati. Se andate sull'etichetta sulla pagina del Bandcamp dell'etichetta spiega tutto il procedimento, adesso non abbiamo il tempo. E Risorgi non è un titolo casuale, perché poi anche i titoli dei brani sono visualizzare come un omaggio a Giuseppe Mazzini, alle sue idee spirituali, al simbolismo esoterico della carboneria. Che bello. Che per essere un progetto di area ambient è una cosa molto curiosa. Comunque, al netto del discorso simbolico, che in questo momento non sono in grado di approfondire, per me è un album che mi ha colpito veramente a livello sonoro. Adesso ne avrete ce ne andiamo a sentire allora. Perfetta. Eh sì, perché abbiamo finito il tempo a disposizione, quindi ci ritroviamo venerdì prossimo, e quindi lo dico io come era solito dire, anzi lo dici tu, dai Banzo, il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana, alle 5:55 tutti i venerdì, diceva: mi raccomando, usate anche gli ultimi 5 secondi disponibili per ascoltare buona musica. Ciao ciao Banzo, ciao a tutti, buon venerdì sera.